Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Milena Agus, autrice di Sottosopra, pubblicato da Nottetempo. La ricorderete Milena Agus, autrice anche di altri bellissimi libri, Mal di pietre, che era stato finalista al Campiello nel 2007, Ali di babbo e La contessa di Ricotta. Questo libro, Sottosopra, è un libro molto poetico. Ci sono dei personaggi che veramente ispirano tenerezza nonostante la vita dura che hanno affrontato. Tutto è ambientato in un palazzo di Cagliari, nel quartiere della Marina, quindi vicino al porto di Cagliari. Milena, allora, questi personaggi, ci sono una serie di personaggi che diciamo intrecciano le loro vite all'interno di questo palazzo. Partirei proprio dalla voce narrante, che è Alice. Chi è questa ragazza? Allora, Alice è una ragazza che viene da un paese del Campidano, che ha alle spalle una vicenda piuttosto, tragica. Una vicenda tragica. È figlia unica, il padre era e la madre erano molto innamorati, ma poi la cosa era finita molto male perché il padre si era innamorato di una studentessa a cui la mamma dava ripetizioni. La mamma era insegnante di italiano. E da lì poi la tragedia. Sì, poi il padre, questo si può dire perché è proprio all'inizio del libro, il padre si impicca per il rimorso, perché la moglie quando sa di questa vicenda inizia a diventare matta a cercare di morire come i personaggi famosi delle storie che conosce, tipo vuole morire come Ofelia in Perturbation dell'Amleto, e quindi va nei canali e cerca di annegare. Insomma, impazzisce proprio nel vero termine della parola. Di dolore, perché non la madre appunto non riesce a spiegarsi come questo tradimento sia stato possibile. Sì. E in che modo queste due vicende, cioè la malattia mentale della madre e il suicidio del padre, influiscono sulla vita di questa ragazza? Allora, un po' tutto il libro io l'ho scritto con un fine, e cioè è possibile creare un'alternativa, anche se questa alternativa è sottosopra, è matta, è completamente al di fuori dalle regole. È possibile trovare un'alternativa alla realtà, a come stanno le cose, tanto che forse non ci sono riuscita benissimo, però quello che io volevo fare è proprio dare nella prima parte del romanzo l'idea di com'è la realtà. Una realtà alla quale non sempre troviamo il modo di opporci e nella quale possiamo soccombere. Nella seconda parte, nel libro è un po' ambigua, però comunque appunto forse avrei dovuto fare uno stacco maggiore, non l'ho fatto, non lo so. Però la seconda parte, che è il romanzo, la fine del romanzo, che Alice scrive per far contenta la sua amica vicina di casa, che è una povera disgraziata. C'è una realtà ovviamente più presenta favolistica. Una fine alternativa. Sì, effettivamente questo stacco io l'ho avvertito solo alla fine del libro, ma è anche bello avvertirlo solo all'ultima pagina, perché dà l'idea anche della sorpresa, insomma. Sì, sì. E in effetti sono due sottosopra. È come reagire al nostro mondo reale che è sottosopra, oppure come è possibile, anche proponendo un mondo sottosopra, reagire alla realtà? E sì, infatti ci sono diversi temi che si intrecciano. Sì. Allora, dicevamo, Alice ha questa vita drammatica alle spalle, sì, appunto questo suicidio del padre, sì, che le pesa molto nella vita quotidiana. Lei dice spesso che vuole diventare una macchina del sesso. Perché? Perché aveva visto, anche se lei era piccola, aveva visto la madre in ginocchio di fronte al padre chiedere cos'ha quella ragazza che io non ho, che io non ho mai avuto. Il padre risponde: è una macchina da guerra del sesso, ma non ti preoccupare, durerà poco. Però la madre, vabbè, non regge, e il padre poi non regge al rimorso, certo, e anche al dolore sì. della moglie a cui voleva bene. E la protagonista, narratrice anche, rimane con questo mito. Cosa fanno le macchine da guerra del sesso? Come farò io a diventare anch'io una macchina da guerra per non essere mai abbandonata dall'uomo che amerò? E quindi lei praticamente ha come una calamita, no? Per tutto quello, una curiosità che deve cercare di capire, di scovare tutto quello che la può mettere sulla strada giusta per diventare anche lei una macchina del sesso. Delle cose che poi sono, certo, forse lette fanno anche un po' ridere, sì, perché certo. Vabbè. Infatti sì. è molto tenero appunto il personaggio di Alice. Poverina, certo. E all'interno di questo palazzo, insomma, sotto casa di Alice abita una signora Anna e sopra un uomo un po' misterioso, Mr. Jones. Mr. Johnson, anzi. Allora, Anna che tipo è? Sì, Anna è a suo modo un cuor contento. E dalla vita quest'Anna, poveretta, ha avuto solo fatica, è sempre in cerca del vero amore, del grande amore, dell'eleganza, e lo cerca a volte in modo un po' anche maldestro, perché ha tutta una sfilza di amori con persone che poi la prendono, con uomini che poi la prendono in giro. È molto ingenua, Anna. Ma è molto ingenua, sì, ed è quello che potremmo definire un entusiasta della vita, un entusiasta dell'amore. E chiaramente si innamora poi anche del suo vicino del piano di sopra, del signore di sopra. Che è questo Mr. Johnson. Il libro si chiama Sotto Sopra anche in questo senso, che c'è un signore di sopra e una signora di sotto. Sì. E finisce Anna per andare, diciamo, prima a lavorare e poi, insomma, si innamora di questo Mr. Johnson, che è molto sì. diverso apparentemente da lei, è un violinista, un uomo di sì. cultura, sì. apparentemente anche ricco, insomma. Sì, sì, apparentemente anche ricco. In realtà comunque si scopre che tutte le ricchezze sono della moglie sarda, anche questo un po' sottosopra, perché lui è un americano povero che ha sposato una sarda ricca, cosa, vabbè, io non l'ho mai sentito, questo me lo sono inventato perché era una cosa strana sottosopra. Grazie a Milena Agus, autrice di Sottosopra, pubblicato da Nottetempo. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.